24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, ben trovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano le indiscrezioni sul futuro della crescita nel vecchio continente. Da un lato si parla di un piano Marshall, dall'altro di un piano italo-tedesco per una ratifica contemporanea del Fiscal Compact nei due parlamenti. Intanto la Spagna entra in recessione e pensa ad una bad bank. La cancelliera tedesca Angela Merkel potrebbe non andare in Ucraina per gli europei di calcio. Infine, un giallo internazionale ci porta a Vienna. Questo dunque il nostro sommario. In apertura però una notizia di ieri sera: Jean-Claude Juncker ha deciso di lasciare la carica di presidente dell'Eurogruppo perché stanco delle ingerenze franco-tedesche nella gestione della crisi. Parigi e Berlino si comportano come se fossero i soli membri del gruppo, ha affermato Juncker durante un discorso ad Amburgo. E ci sono grandi manovre in vista nei due mesi che dovrebbero portare l'Europa fuori dalle secche della politica del rigore a tutti i costi. La Commissione europea ha smentito le indiscrezioni di stampa su un piano Marshall in preparazione a Bruxelles per mobilizzare 200 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati per riattivare la crescita. Sentiamo la portavoce della Commissione, Pia Arenkilde Hansen. We have seen some highly speculative figures out there, speculation which have no reality as far as we are concerned. Abbiamo visto sulla stampa alcune cifre molto speculative e molte speculazioni che riteniamo non abbiano niente a che fare con la realtà. Come ha già detto e ricordato il presidente Barroso venerdì, dopo l'incontro con Mario Monti, abbiamo già un piano per la crescita sostenibile e si chiama Europa 2020. Questa strategia, proposta anni fa, nel 2010, è stata approvata da tutti gli Stati membri e appoggiata dal Parlamento europeo. Non stiamo parlando di un'alternativa al consolidamento di bilancio. La strategia per la crescita Europa 2020 fa da completamento indispensabile al consolidamento di bilancio. Non si tratta di scegliere tra il consolidamento di bilancio o la crescita. Abbiamo bisogno di entrambe le cose. Come ha già detto il presidente Barroso venerdì, questo è possibile per fronteggiare le grandi sfide e aiutare l'Europa a tornare a crescere e a creare posti di lavoro. Quindi non stiamo scoprendo oggi l'agenda europea per la crescita. Sto pensando, per esempio, al fatto che stiamo lavorando sulla crescita a tutta velocità come completamento al consolidamento di bilancio, questioni che abbiamo affrontato lo scorso ottobre. We're not discovering Europe's growth agenda today. I'm also thinking about the comprehensive roadmap for stability and growth that we put forward in October. E sull'ipotesi di un piano Marshall sentiamo ora Antonio Poglio Salimbeni, corrispondente dell'agenzia di stampa Radiocor a Bruxelles. L'Unione Europea questa mattina ha smentito i dettagli pubblicati dal Paese, ha smentito che si pensa a un intervento a sostegno della crescita con i soldi non ancora utilizzati del fondo temporaneo salva stati, e in ogni caso di che cosa si tratta? Si tratta della possibilità, della proposta della Commissione europea lanciata già una decina di giorni fa, di aumentare il capitale della Banca europea degli investimenti. La Bruxelles calcola che con un aumento di capitale di 10 miliardi è possibile mobilitare investimenti fino a 180 miliardi, in parte con l'uso di fondi del bilancio europeo, ma in buona parte con l'uso di fondi privati. Quindi se si tratta di piano, non si tratta di un piano articolato in cui ci sono già i soldi, si tratta di mettere su pista il capitale, del capitale pubblico, che poi una volta deciso può mettere in campo capitale privato. Sì, i dettagli sono stati smentiti, ma qualcosa di concreto ci sarà. Intanto l'indiscrezione del quotidiano La Repubblica sul presunto piano italo-tedesco fa parlare. Una prima conferma è giunta addirittura dall'opposizione tedesca con la parlamentare Ulla Burkhardt dell'SPD, che ha definito un'idea charmante ma ancora in discussione quella della ratifica simultanea del Fiscal Compact nei parlamenti italiano e tedesco. Il progetto sarebbe già in fase avanzata e rappresenterebbe un'azione politica spettacolare destinata a rinsaldare l'asse Roma-Berlino in vista della probabile uscita di scena di Nicolas Sarkozy in Francia. Anche il presidente della Commissione Esteri del Senato, Lamberto Dini, ha confermato il piano. E la Spagna è ufficialmente entrata in recessione dopo che nel primo trimestre 2012 il prodotto interno lordo ha registrato un calo dello 0,3%, starebbe preparando la creazione di una bad bank in cui far confluire le attività a rischio in pancia alle banche iberiche. La società di consulenza BlackRock sarebbe stata incaricata di individuare gli assets tossici in mano alle banche per separarli dalle altre attività e ripulire così i bilanci. Intanto l'agenzia di rating Standard & Poor's ha tagliato il rating di 9 istituti di credito iberici, quale conseguenza del declassamento di Madrid del 26 aprile. E ci trasferiamo ora in Grecia, pochi giorni alle elezioni. Vittorio D'Arolta. Atene si prepara al voto politico di domenica come se fosse un referendum sulla permanenza nell'euro. Un voto con 36 partiti, una cifra record per un paese che dalla fine della dittatura dei colonnelli nel 1974 è stata governata da un bipartitismo dinastico fra i conservatori di Neodemocrazia e i socialisti del PASOK, in una alternanza perfetta che però ha portato il paese alla rovina. Oltre a questi due, si prevedono 10 partiti nel nuovo Parlamento contro i 5 attuali. Le previsioni dunque favoriscono la frammentazione politica e se nessuno raggiungerà la maggioranza ci vorrà un governo di coalizione, forse guidato dal conservatore Antonis Samaras e dai socialisti di Evangelos Venizelos, altrimenti sarà il caos, in un momento in cui l'economia è prevista in calo del 5% nel 2012. Il ritorno ufficiale della Spagna in recessione, accompagnato dalla scure di Standard & Poor's sugli istituti iberici, ha pesato sui listini azionari europei, che hanno chiuso in rosso la prima seduta della settimana. La giornata è stata peraltro povera di spunti, considerato il clima festivo alla vigilia del 1° maggio. A Piazza Affari il FTSE MIB ha lasciato sul terreno l'1,26%. Il ritorno ufficiale della Spagna in recessione, accompagnato dal taglio del rating delle principali banche iberiche deciso dall'agenzia Standard & Poor's, ha pesato sui listini azionari europei. Le borse hanno chiuso in rosso l'ultima seduta di aprile, zavorate dalle vendite sui settori più ciclici. A Piazza Affari il FTSE OCEA ha lasciato sul terreno l'1,08% e il FTSE MIB l'1,26%. Tre titoli continua il rally del settore del lusso, in cui la matricola Brunello Cucinelli, dopo l'esordio boom di venerdì scorso, ha guadagnato un altro 3,45%. Brillante anche Salvatore Ferragamo, che con un più 6,46% ha fatto segnare la migliore prestazione tra i titoli a maggiore capitalizzazione. Giornata difficile invece per ST Microelectronics, meno 4,2%, che ha risentito del taglio dell'outlook deciso da Moody's. Le prospettive sul giudizio della società sono passate da stabili a negative. Paolo Paronetto da Radio Corp per Radio 24, Sole 24 Ore. E la cancelliera tedesca Angela Merkel minaccia di non andare alle europee di calcio in Ucraina. Pronta la risposta del governo di Kiev: non vorremmo pensare che i leader politici della Germania siano in grado di riportare in vita metodi da guerra fredda e di rendere lo sport ostaggio della politica. Anche il presidente della Commissione europea, Josep Barroso, non andrà a Kiev. Sgomberiamo subito un campo, quello sportivo. Gli europei di calcio ci saranno in Polonia e Ucraina dall'8 giugno al 2 luglio, giorno della finale di Kiev. Proprio come ci sono state le Olimpiadi in Cina e quelle di Mosca e di Montreal, nonostante i boicottaggi incrociati su questioni ben più epocali. Ciò detto, adesso è il calcio il cavallo di Troia su cui monta il gotha politico europeo per andare all'assalto del caso Timoshenko. Yulia, ex premier ucraino ed eroina della rivoluzione arancione, è in carcere, condannata a 7 anni per abuso d'ufficio. Avrebbe subito violenze. Angela Merkel, la cancelliera, è stata la prima a saltare in groppa al cavallo al grido di «Noi politici boicotteremo gli europei, non ci andremo». Si è accodato Barroso. Quanto basta per aprire un dibattito internazionale cui si iscrive il ministro dello sport Piero Gnudi? Quando vengono violati i diritti soggettivi e i principi democratici, lo sport non può voltarsi dall'altra parte. Sempre vero, a patto di non dare allo sport compiti che non gli competono. L'ha capito subito il capo della Federcalcio Abete, che infatti ha sottolineato come il calcio aiuterà a far parlare del caso di Yulia Timoshenko. È sempre così, in occasione dei grandi eventi sportivi si accendono i riflettori anche sulle tematiche sociali dei paesi che li ospitano, ha detto. Lui sì, ha capito al volo il discorso. Agli europei ci andrà e vedrete, in buona e titolata compagnia. Carlo Genta, Radio 24, il Sole 24 Ore. E ora un mistero internazionale. Il corpo dell'ex ministro libico del petrolio, stretto collaboratore di Muammar Gheddafi, Shukri Ghanem, è stato ritrovato nel Danubio. Sentiamo. Sul corpo nessun segno evidente di violenza, nulla che a prima vista possa far pensare a un omicidio. Per la polizia potrebbe anche trattarsi di un suicidio oppure di un malore. Eppure ha preso subito i contorni del giallo il ritrovamento a Vienna, nelle acque del Danubio, del cadavere di Shukri Ghanem, 69 anni, ex ministro libico del petrolio, uomo molto vicino al colonnello Muammar Gheddafi, presidente della società petrolifera di Stato dal 2006 al 2011. Aveva lasciato Tripoli un anno fa, mentre era in corso la rivolta contro Gheddafi, denunciando il bagno di sangue delle forze del Rais e parlando di una situazione intollerabile si era rifugiato in esilio a Vienna, la città che ospita l'OPEC, il cartello dei paesi produttori di petrolio. Toccherà all'autopsia ordinata dalle autorità giudiziarie austriache stabilire con certezza le cause della morte. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 Ore in Europa. Un grazie per l'assistenza in regia a Paolo Corleoni. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.